Le prime novità arriveranno dalla California. In Italia saranno le 19 quando Steve Jobs presenterà a San Francisco la seconda versione del telefono che ha rinnovato il mercato degli smartphone, lanciando la moda del touchscreen. A quasi un anno dall'esordio arriverà un iPhone UMTS, una mancanza finora grave soprattutto per il mercato europeo e per un telefono che fa della connettività uno dei punti di forza. L'altra grande novità toccherà i listini. Secondo le ultime indiscrezioni, il taglio potrebbe essere negli Stati Uniti del 50%, portando i nuovi iPhone a $200 grazie alle sovvenzioni di AT&T, l'operatore che lo vende in esclusiva ma che obbliga ad un contratto di 2 anni. Rimane da capire ora cosa faranno TIM e Vodafone, che Apple ha scelto per il mercato italiano, il primo tra l'altro dove è stata abbandonata la formula dell'esclusiva, ovvero un solo operatore per ogni paese. Apple, che ha venduto finora 5 milioni di telefoni, punta a 10 per il 2008 e raggiungere così una quota di mercato inferiore all'1% a livello mondiale, come dire una piccola fetta in un immenso mercato. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore.